questa. Ritrovavo una foto che non ricordavo. Eravamo tutti in piedi, ragazzi alla mano. Ridevamo per una cosa che non aveva senso. Per chi passava ci guardava, giovani adesso. Invece adesso quella piazza e le mille occasioni. Ridevamo per un panino che sembrava l'infinito. Per chi passava ci diceva buon appetito. E invece adesso apri colori. Altri sapori, invece l'adesso, altri colori, ridere da niente, altri sapori. Ho ritrovato una foto che vale dei Cronchi rosa, da un porta fortuna, meglio di una medicina, di una corsa ad un parco, meglio di una giunta fuori porta, una